sono spaziale, speciale, eccezionale, se tu sei tra. Benvenuti alla primissima puntata di Coxo Spaziale, che ha come luogo di registrazione setup ed è pienamente integrato nella programmazione. Abbiamo anche il grandissimo ritorno di Stefano Pasquini, che... Oh cavoli, Stefano, è che ormai, sai che cos'è? È che ormai la W se la stanno prendendo tutti i co-conduttori ogni mese, che tu stai, infatti non sei più tornato, sei diventato 47 all'ultima puntata. Adesso dobbiamo fare un po' di giri di microfoni perché, beh, innanzitutto, ciao Pasco, bentornato, ci voleva setup per farti tornare. Ci voleva Fabio Cavallucci per farmi tornare. No, dicevo ciao, ma questa è la prima puntata dunque. Sì, inauguriamo con te. Ah, grazie, sei molto cara. E soprattutto con i super mega maxi galattici ospiti che ci hai portato. Del primo talk di setup abbiamo avuto come ospiti Maria Letizia Paiato, curatrice indipendente nonché gragnocca, e Fabio Cavallucci, direttore del museo e Centro d'arte contemporanea Pecci di Prato, giusto? Centro W. W. d'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato. Oltre che gragnocco anche lui, giustamente. Eh beh, scusa. Gnocco rinomato, conosciuto, che insomma è un po'... Prato ce l'ha rubato un pochino, no? Io me lo ricordo, un sacco di belli eventi che sono stati organizzati qui a Bologna e provincia. Vabbè, insomma, comunque l'arte non è... Perciò ti ripasso il microfono. Sì, non ti mettere a fare la nostalgica degli anni 90, perché sennò qua non finiamo più. Dicevo, di che cosa abbiamo parlato, Letizia? Io, come tu sai, non ho memoria breve, per cui Quindi mi tocca a me fare la memoria di quello che ci siamo detti. Allora, intanto, giusto per rimanere così su questa linea ironica, abbiamo rapito Cavallucci. Esatto. L'abbiamo legato e portato di forza qua a setup per parlare di orizzontalità dell'arte. In mezzo all'autostazione di Bologna. Sì, disteso in orizzontale. Quindi una situazione di piena orizzontalità dell'arte. Passati in bicicletta anche in mezzo al vostro talk oggi? No, bicicletta per fortuna no. Però c'era uno che aveva due sacchi grandi come lui, tipo due sacchi alti 1,20 m, e li trascinava e si sentiva questo... Però devo dire che dopo un po' di trambusto iniziale, in realtà forse il tono di voce di Cavallucci è stato così importante da creare anche una quasi bolla di silenzio. Lui era poi l'argomento. Io devo dire che ho ammagliato la friggitrice di patatine del kebabara di fronte che Comunque, Fabio ha fatto tutta l'ora, per cui era un po' distratto obiettivamente. Ha fatto effettivamente una descrizione del luogo, cioè proprio a raggi rossi. Ma entriamo un po' nel vivo. Ma parliamone allora più con Fabio, che è stato più lui, insomma, il protagonista. Cavallucci. Non è che viene tutti i giorni. No. Ci metto anche uno stacchetto. Bravo, grazie. Fai finta di aver sentito. Noi in questo momento, io non ho capito una cosa. Stiamo registrando la trasmissione. Ah, ma poi siamo in diretta. No, è tutto. No, poi tagliamo. Stiamo facendo un sunto di quello che è stato il nostro talk. Tagliamo e cuciamo. Esatto. Però tu l'hai messa, diciamo così, nella spiritoso. Ecco, siamo spiritosi. Coxo Spaziale. Coxo Spaziale, l'arte come non l'avete mai. No, come non l'avrete mai. So. Come non potreste averla mai. Mai. Comunque, siamo qui con Maria Letizia Paiato e Fabio Cavallucci, insieme al grandissimo coxico Stefano W. Pasquini, che sono reduci dal primo talk, quello che ha inaugurato la programmazione dei talk a Setup Art Fair. Il primo talk era intitolato così: orizzontalità dell'arte, creatività istituzionale e creatività individuale. E adesso, miei cari ospiti, mi farete il sunto che Pasquini mi ha promesso voi avreste fatto per la prima puntata del Coxo Speciale. Peccato che non ve l'avevo detto, ma insomma, so che siete bravi improvvisatori. Si dice pasquinate, no? Io, infatti, facciamo fare la prima pasquinata. Tocca a me? Sì, sì, beh, mi sembra. Allora facciamo così, metto il jingle che ci ha regalato Riccardo Lolli insieme ad Enrico Farnedi apposta per le puntate speciali del Coxo e poi ripartiamo Lolli subito. Lolli e Farnedi proprio non mi potevano mancare. Proprio. Però puoi mettere quel jingle dove diceva Arte Fiera che dopo sei stata... Ma ti devo censurare sempre, in tutte le occasioni, avevamo sospeso il faccia al muro. Dai, allora, jingle e torniamo subito con i nostri ospiti per questa prima grande puntata dei Coxo Speciali. Coxo Spaziale, speciale, eccezionale, se tu sei tra. Bentornati alla primissima puntata in programmazione per i Coxo Special da Setup. Cedo subito al graditissimo ritorno di Stefano W. Pasquini, il nostro coxonauta per eccellenza, l'introduzione al dialogo e ai nostri ospiti. Siete pronti per il cappello introduttivo? Vai! Cappello introduttivo! Fabio, di che cosa abbiamo parlato? Ricordo che abbiamo cominciato parlando di Instagram, perché abbiamo detto che Instagram è il futuro dell'arte. Poi io ho ammesso che non ho ancora un account Instagram, e però vado tutti i giorni, almeno 50 volte al giorno, su Facebook. E ho detto che la situazione in cui ci trovavamo, con il doner kebab, con la gente che passava, quello che tirava la carriola, 25 persone del pubblico che guardavano da un'altra parte, tu che parlavi di orizzontalità, lei che stava orizzontale, io che ero verticale, era una foto perfetta della situazione del mondo attuale, cioè una confusione complicata dalla incomprensibilità dei linguaggi. E siamo partiti da lì, poi il seguito lo sei tu. Quindi questa orizzontalità è babelica. Che parola meravigliosa. Se non addirittura totemica. Totemica. Sì, appunto. Poi dopodiché ci siamo biforcati in due strade un po'. Nel senso che giustamente Fabio ha parlato dell'istituzionalità e del problema, cioè dei vari problemi. E anche di come affrontare questi problemi di distanza tra il pubblico e l'arte contemporanea, raccontando questo forum per l'arte contemporanea che c'è stato a settembre al Pecci di Prato, non chiamo più museo perché continuo a sbagliare il suo nome, e mentre invece io continuavo ad andare per la tangente parlando di Benedetto Croce di queste cose del 1902, perché lui aveva previsto Instagram, secondo me. Io adesso devo solo avere le prove di questa cosa, ma le troverò. Posso dire che ti ho scoperto che stavi ripassando Croce proprio prima del... Ciao Fedro, lasciami stare che sto ripassando Croce. Sto studiando Benedetto Croce, no, anche perché io, fra l'altro, filosofia l'ho fatta un anno in quinta liceo artistico e ma Croce non l'abbiamo neanche. Tu hai capito veramente lui quando parla di intuizione a che cosa si riferisce? No. Ah, ecco. Certo che no, appunto, non ho mai, cioè io sono ho fatto il liceo artistico e l'Accademia di Belle Arti, per cui non posso ritenermi vicino alla cultura, no? Ma ce lo dice qualcuno di voi? C'è bisogno della tua password per sapere cosa intendeva Croce, la password. Dopo il talk, in verità... Non sai la password dell'Apple Store? Sì, dai, quando installi un'app... Dell'account di Croce? Dell'account di Croce. Passato, presente, provare. Tutto si trova no, però nel contemporaneo. Potremmo dire pubblicamente la password di Cavallucci, stando fermi così, perché cioè, l'intuizione, Croce, così, in verità, cioè, adesso la dice al microfono, senza rendersene conto. La composta in silenzio, mi dispiace. Il buono c'è che metto sempre la stessa da 20. Ah, quindi è la anch'io. Stessa del sito forse... del Pecci? Forse è quello. Del Facebook? No, stiamo praticamente, adesso mi piacerebbe dire in diretta, ma non siamo in diretta, siamo registrati, ma stiamo registrando l'account di Fabio Cavallucci in diretta dallo studio di Coxo Spaziale. E tutto ciò è molto contemporaneo. Orizzontale. È molto orizzontale. Verifica fallita. Allora. Questo è un must. Riprendiamo le fila del discorso, eravamo arrivati all'intuizione di Benedetto Croce. Cambiamo pagina. Quindi... No, io parlavo di Instagram come possibilità orizzontale di creatività di tutti, cioè nel momento in cui tu hai un account Instagram e produci arte, tra virgolette, in quel modo, sei sullo stesso piano di tutti gli artisti importanti o meno che praticano questa disciplina creativa. E qui c'è l'orizzontalità, okay. Bella piallante. Tutte però le... io voglio dire una cosa, perché così scalpito dalla voglia di dirla. E poi secondo me potrebbe essere divertente anche per Fabio, perché io qua in questa fiera, cioè con Stefano, già l'anno scorso ho parlato di orizzontalità. Anticipavate i tempi. Abbiamo anticipato i tempi, perché no? Anche perché siamo sempre io e te che parliamo di orizzontalità, no? Sappiamo, per cui perché... non è che cioè ci siamo auto-anticipati, no, perché... non è che ci voglia. Però noi qua dentro l'anno scorso abbiamo ricostruito con l'associazione, insomma, che abbiamo, a cui Stefano partecipa, abbiamo vogliamo ricostruito dire il nome? Uno spazio, si chiama Yoruba Diffusione Arte Contemporanea di Ferrara. Noi qui abbiamo fatto un progetto, abbiamo ricostruito l'IKEA, cioè abbiamo fatto uno spazio IKEA. Punto. Fuori qua da una delle stanze c'era un bellissimo cartellone, lo spazio era 28 metri quadri, fai spazio al tuo stile, scegli il tuo artista, i nomi degli artisti stavano su un foglietto identico a quello dell'IKEA per scegliere i mobili, tu mettevi la croce all'artista che ti piaceva di più, esattamente come andare all'IKEA, solo che anziché comprare i mobili compravi le opere, cioè proprio abbiamo tracciato proprio una linea di orizzontalità. Uno, due, poi finisco. A Torino invece con Stefano abbiamo portato il suo studio, cioè l'abbiamo proprio ricostruito e lui si è messo lì a dipingere, quindi abbiamo proprio avvicinato fruitore e osservatore. Siamo bravi a lavorare orizzontali, eh? Quindi infatti dopo eravamo belli stesi. E poi devo menzionare che comunque Letizia è stata colei che ha è stata colei che ha fatto partire la scintilla della mia mostra Aiutatemi che sono messo male, per cui siamo proprio orizzontali. No, siamo proprio i più sfigati in assoluto. Cavallucci annuisce. Ma allora no, vivo sulla mostra. Riguardo al tema dell'orizzontalità siamo ancora entrati più. Io direi che potremmo fare un altro piccolo break. Ascoltiamo un piccolo brano, magari facciamo di Lolli, che è amico un po' di tutti noi qui, e ci piace. C'era tanto. C'era Giada che voleva cantare. E poi ritorniamo per la seconda linea, ovvero creatività istituzionale e creatività individuale. Qual è il nesso? Quale sarà? Ce lo dirà Cavallucci. Tra poco. Urla, urla nella tua mente. Portatemi donne e droghe per il dopo festival. Mettetele in cartoni anonimi che non mi arresti, Val. C'è ancora un sacco di persone che non so dove mettere. Un giorno resteranno solo le buche delle lettere. E io voglio di fuggire via. Andiamo tutti in pizzeria. Tra chimica signora si è fatta una certa ora. E peccato che non ci son più quei locali dove andavi tu. Senza audio, senza Dio, quei locali dove andavo io. Portatemi donne e droghe da cliccare sul monitor. Portate nemmeno, non vorrei che mi venisse il vomito. Spiegate con parole vostre perché siete in tanti. O io sono sinottico oppure siete ridondanti. Vino, droga e Monte Bianco riducono l'uomo stanco. Non respiro col naso e dico delle cose a caso. Poca distanza tra questi muri, poca capienza per gli atti impuri. Non respiro col petto, vedrai che tra poco la smetto. Vino, droga e Monte Bianco riducono l'uomo stanco. Vino, droga e Monte Bianco riducono l'uomo stanco. Vino, droga e Monte Bianco riducono l'uomo stanco. Vino, droga e Monte Bianco. Vino, droga e Monte Bianco. Fatemi donne a pezzi, voglio un po' di sero. Ve li fa un po' meno. Datemi un divano duro, voglio stare scomodo. Datemi del sangue finto per le donne in umide. Pronti senza l'aspartame. va. Metteteli cartoni anonimi che non mi arresti, va. Ancora un sacco di persone che non so dove mettere. Un giorno resteranno solo le buche delle lettere. Portatemi donne e droghe da cliccare sul monitor. Portatene meno, non vorrei che mi venisse il vomito. Spiegate con parole vostre perché siete in tanti. Io sono simpatico pure, siete ridottanti. Vino, droga e Monte Bianco riducono l'uomo stanco. Vino, droga e Monte Bianco riducono l'uomo stanco. Vino, droga e Monte Bianco riducono l'uomo stanco. Vino, droga e Monte Bianco riducono l'uomo stanco. Rimane la fantasia, non tutta la cosa è brutta, tutta la stiecca, mes, urla, perfine urla nella tua mente, che magari andava a bussare fino a figurasse. E di nuovo qui, nell'ultimo ai noi slot del questo primo programma, ai noi perché sto tanto bene in vostra compagnia e vorrei che tornaste, foste sempre qui col coxo e con noi, anche Pasquini me l'avete riportato. E però adesso io, siccome voglio entrare nello specifico di questo secondo, di questo tema, di questo talk, passo la parola ad una nuova voce che ha assistito anche al talk, che si autopresenterà e poi inchioderà i nostri ospiti e gli farà dire quello che devono. Ciao a tutti, io sono Giada Pellicari, sono qui da Setup, Art Fair, e stiamo ritornando con il cappello introduttivo sulla creatività istituzionale, creatività individuale, quindi il talk che c'è appena stato, e come ospiti abbiamo Fabio Cavallucci, Maria Letizia Paiato e Stefano V. Pasquini. V. Bello. V. E passo la parola agli ospiti. V. V. Cavallucci. Tocca a me? Tocca a te. Tocca a me. Suspense introduttiva. Abbasso anche la musica di sottofondo, mi scusi. Adesso c'è silenzio. Beh, a un certo punto abbiamo parlato del Forum dell'Arte Contemporanea Italiana che si è svolto a Prato tra il 25 e il 27 settembre 2015. Che, diciamo la verità, in realtà si trova proprio all'incrocio tra la creatività individuale e la creatività istituzionale. È una sorta di rete in cui si incuneano le creatività individuali, perché c'erano più di 40 tavoli con tanti temi, con più di 450 persone chiamate alla discussione, più di 1000 persone tra il pubblico, cui tutti potevano partecipare, quindi anche lì, diciamo la verità, una grande confusione, e invece il tentativo istituzionale di portare tutta questa energia e dirigerla verso dei fini, produttivo è una brutta parola, ma che voleva dire fondamentalmente tirare fuori di lì dei messaggi, delle ipotesi di ristrutturazione profonda del sistema dell'arte contemporanea italiana, cosa che non mi immaginavo sarebbe avvenuta ed invece è accaduta, tanto che in questo momento, dopo 4 mesi dal forum, dopo discussioni che sono continuate con i coordinatori che hanno continuato a casa loro, incontrarsi, a parlare, incontrare persone eccetera, siamo arrivati alla stesura di un documento che sarà un documento di revisione fondamentale del sistema dell'arte contemporanea italiano che tra pochi giorni presenteremo al governo e convinceremo il governo a fare alcune riforme determinanti per il rilancio dell'arte italiana, non vista soltanto, diciamo, come fine interno, non è soltanto il fine di migliorare il sistema dell'arte italiano, quanto anche di vedere l'arte come mezzo di rilancio del sistema Italia nel suo complesso. Rilancio la palla a Giada. Rispetto al forum? Rispetto a questi temi, tu hai assistito anche il talk più ampio e magari puoi aiutarci ad entrare più nello specifico del vivo di questo argomento. Ma non diciamo niente, che è una cazzata, scusate, o stiamo dicendo... No, stiamo diventati improvvisamente Evidentemente seri. Siamo cioè, diventati no, seri. Cioè, adesso devi dire una cosa che non c'entra niente. Il governo cosa farà? Ah, allora non dico la mia opinione. No, prima no, riprendiamo. Okay. Di la tua opinione. Allora. Opinione di Giada. Grazie. Allora, io vorrei dire due cose rispetto al talk a cui ho assistito, che ho trovato molto interessante. Credo che il tema del rapporto arte-creatività amatoriale sia una tematica molto preminente, diciamo, e molto presente attualmente, soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni. Credo che questo discorso della liberalizzazione proprio democratica delle tecnologie abbia portato a una produzione di contenuti da parte di creativi amatoriali, e quindi questo un po' sta mettendo in discussione la questione dell'arte. Detto ciò, però, ci sono anche artisti che secondo me adesso lavorano su questo discorso, tipo Ryan Trecartan, secondo me è uno che ha lavorato molto, cioè lui ha iniziato fondamentalmente con YouTube, adesso è uno dei video artisti più quotati, 2 anni fa era in Biennale, insomma, e quindi è un questo sta un po' scardinando il sistema, ma secondo me lo sta anche rendendo estremamente interessante, perché come facciamo a decidere cosa veramente interessante attualmente? È difficile deciderlo, credo che lo capiremo fra 20 anni, ed è un po' il ruolo della critica militante, credo, da questo punto di vista. Anche Pasquini lo fa. E infatti che cosa decidere, che cosa è che vale, che è proprio il tema più pregnante del ruolo istituzionale, credo. Istituzione. Sì, in un certo senso lo è, anche se proprio perché in questo momento è così il sistema di produzione artistica, creativa è così vasto, è praticamente impossibile. E giustamente praticamente impossibile. Anzi, devo dire, scusate se torno un attimo alle cose serie, ma c'è un artista polacco, di cui non ricordo in questo momento il nome, che produce dei video animati, e la cosa che mi ha colpito in uno dei suoi video era che parlava della cultura e mostrava come, per esempio, 50 anni fa la cultura si selezionava attraverso una serie di passaggi che era determinato da certe persone, una certa elite, eccetera. Poi naturalmente parla della cultura oggi e mostra come in realtà la quantità di informazioni, di nozioni, di cultura appunto che si manifesta è tale per cui forse non esiste più, per esempio, la categoria del primo. Il migliore, che è un concetto che ha accompagnato per tanto tempo la storia, non soltanto culturale, dell'umanità, probabilmente potrebbe non esistere più. Potrebbe essere un metodo sbagliato quello di cercare il migliore. Mi verrebbe da dire una cosa che è una mia riflessione intima e personale, ma mi sono resa conto che la porrei come questione a voi che siete troppo professionisti e io vai. Pasquini, ti ripasso la parola. Grazie. Visto che Giada giustamente non ha accolto la mia richiesta, te la faccio io questa domanda. Secondo te il governo come reagirà alla vostra lettera? No, molto positivamente. Ci sarà una riforma. Ci sarà una riforma? Sicuramente. Grande. Cioè qui stiamo facendo la storia. Stiamo facendo la storia. Se vi rendete conto. La storia coxo spaziale, l'arte come non l'avete mai, ma l'avrete un giorno. Comunque è veramente un momento, insomma, che c'era scritto, è una svolta, cioè non è cosa da poco. Vorrei aggiungere una cosa, se fosse possibile. Ritengo che il forum sia molto contemporaneo, proprio perché in realtà in maniera reale, cioè proprio vivente, ha messo in piedi quello che succede nei blog e tutti i commenti, ad esempio, che ci sono a seguito di articoli che escono, cose di questo tipo. Però l'abbia reso reale, cioè l'aspetto effimero dei social in realtà sia stato poi reso tangibile tramite questo aspetto. E vorrei aggiungere, perché è stato toccato all'interno del talk precedente, insomma, un discorso relativo all'IVA, rapporto al mercato dell'arte. Per me sarebbe molto importante lavorare anche su un discorso di produzione delle opere. Cioè, il discorso dell'IVA è un discorso successivo rispetto alla vendita, ma credo anche che una cosa sulla produzione delle opere sia fondamentale. Cioè, come ci sono le produzioni cinematografiche, dove I produttori ad esempio lavorano anche in coproduzioni al fine di realizzare un film, perché lì si parla di budget veramente elevatissimi, cioè per fare un corto sono 10.000 euro per dire. Così anche nelle opere d'arte credo che sia fondamentale sovvenzionare, perché chi ha delle progettualità importanti magari non ha la possibilità di realizzarle, e quindi poi anche il mercato secondario, cioè quello relativo alle gallerie e no, anzi sarebbe mercato primario se poi vogliamo essere proprio fiscali, viene meno insomma se manca la materia prima. No, ma certo, ma sai, purtroppo non avevamo la possibilità, no, scusa se diciamo cose che poi non sono state dette nel dibattito, ma in realtà il terzo punto, a cui non siamo mai arrivati sotto nel dibattito, è l'Agenzia di Promozione dell'Arte Italiana, che darebbe dei grants per produzione o per trasporto, promozione, eccetera. Cioè Cavallucci le ha pensate tutte, per sia in Italia che all'estero. Quindi questo, diciamo, è chiaro che ci sarebbe una parte che va direttamente proprio alla produzione. Ma Cavallucci è bravo. Grazie. Questo lo sappiamo. Complimenti. E tante grazie per aver elargito il terzo punto proprio in esclusiva a noi del Coxo. Così insomma abbiamo chiarito anche questa cosa, perché ci tolgono i minuti sempre. Ai ai ai. Che purtroppo sono anche gli sgoccioli tu, anche stai togliendo anche tu. Ci tolgono i minuti sotto i piedi, ma noi comunque noi camminiamo. Ci piace essere orizzontali. No, secondo te cosa potrei dire a Coxo Spaziale dopo una frase del genere? Ho paura. Vado faccia al muro e non dico niente. Beh, io sono contentissima di aver varato le puntate speciali di Coxo Spaziale qui a Setup insieme a voi, e perciò ringrazio nuovamente Fabio Cavallucci, grazie. Maria Letizia Paiato, grazie. Stefano Pasquini, W, col W lui unico e solo, però ma contagioso, e che torna al Coxo, per piacere, ci manchi tanto, e anche Giada Pellicari che... insomma, ospite eccezionale. Per fortuna che c'era, è grazie a lei che abbiamo strappato il terzo punto inedito. Infatti. Forse dovresti venire più di frequente. E infatti. E su questo invito invitiamo anche tutti voi a ritornare di frequente ad ascoltarci, e tanti saluti a tutti. Corso spaziale speciale eccezionale. Se tu sei bravo.